Madame de Villeparisis mi sentì pronunciare queste ultime parole. Ne parve contrariata. Se non si fosse trattato di una circostanza che escludeva un sentimento di siffatta natura, mi sarebbe parso che ad entrare in allarme in Madame de Villeparisis fosse stato il pudore. Ma questa ipotesi non s'affacciò neppure alla mia mente. Ero contento di Madame de Guermantes, di Saint-Leu, di Madame de Marsant, del signor de Charlus, di Madame de Villeparisis, non ero portato a riflettere e parlavo allegramente a ruota libera. «Dovete andare via con mio nipote Palamède?» mi domandò la marchesa. Pensando che sapermi in buoni rapporti con quel nipote di cui aveva tanta stima potesse fare a Madame de Villeparisis un'impressione molto favorevole, «m'ha chiesto di uscire con lui», risposi con gioia. «Ne sono felice». Del resto, signora, siamo più amici di quanto non crediate e vorrei tanto che lo diventassimo ancora di più. Da contrariata, Madame de Villeparisis parve farsi irrequieta. Non aspettatelo, mi suggerì con aria preoccupata. Sta parlando col signor di Pfaffenheim. Si è già dimenticato di ciò che va detto. Su, andate, presto, approfittatene ora che vi volta la schiena. L'iniziale turbamento di Madame de Villeparisis avrebbe fatto pensare, in circostanze diverse, al pudore. La sua insistenza, la sua contrarietà sarebbero potute apparire, a non consultare che il suo viso, dettate dalla virtù. Per parte mia, avevo ben poca fretta di raggiungere Robert e la sua amante, ma la marchesa sembrava a tal punto desiderosa di vedermi andar via che, supponendola ansiosa di parlare col nipote di qualcosa di importante, finì col salutarla. Accanto a lei, olimpico e superbo, era pesantemente seduto il signor di Guermantes. Si sarebbe detto che, onnipresente in tutte le sue membra, la nozione delle sue immense ricchezze conferisse una straordinaria densità a quell'uomo dalla quotazione tanto elevata, come se tutti i suoi beni fossero stati fusi al crogiolo in un unico lingotto umano. Quando lo salutai, s'alzò compitamente dalla sedia ed io ebbi la sensazione di una massa inerte e compatta di 30 milioni di franchi smossa, sollevata e tenuta in piedi davanti a me dall'antica educazione francese. Mi parve di vedere la statua di Giove Olimpio fatta fondere da Fidia, dicono interamente in oro. Tanto poteva l'educazione dei gesuiti sul signor di Guermantes, sul suo corpo almeno, giacché non altrettanto forte era il suo dominio sulla mente del duca. Egli rideva delle proprie battute, ma non sprecava un sorriso per quelle degli altri. Sulle scale sentii una voce che mi interpellava alle mie spalle. «È così che mi aspettate, signore?» Era il signor di Charlieu. «Vi dispiace se facciamo quattro passi?» mi chiese seccamente quando fummo nel cortile. «Cammineremo finché non mi capiti a tiro una vettura decente. Volevate parlarmi, signore?» «Ah, già, in effetti avevo alcune cose da dirvi, ma non so se lo farò. Certo, suppongo che potrebbe trattarsi per voi del punto di partenza di inestimabili vantaggi, ma mi sembra anche di capire che la cosa provocherebbe nella mia esistenza, a un'età in cui si comincia a voler stare tranquilli, molte perdite di tempo, molti fastidi di vario genere. Ora mi chiedo se valete tanto da giustificare che io mi dia tanta pena per voi, e non ho il piacere di conoscervi abbastanza bene da potermi rispondere. Voi stesso, d'altronde, non desiderate ciò che potrei fare per voi con sufficiente fervore, perché io mi sobbarchi a un simile disturbo. Perché, signore, ve lo ripeto molto francamente, per me non potrebbe trattarsi di nient'altro che di un disturbo. Protestai che, se le cose stavano così, non era il caso di incomodarsi. Una simile rottura delle trattative non parve andargli a genio. «Questa vostra cortesia non ha alcun senso», replicò duramente. «Non c'è nulla di più piacevole che affrontare dei fastidi per una persona che lo meriti. Per i migliori fra noi, lo studio dell'arte, la passione per le anticaglie, il collezionismo, il giardinaggio, non sono che ersatz, succedanei, alibi. Ciò che chiediamo dal fondo della nostra botte, come Diogene, è un uomo. Coltiviamo begonie o tagliamo siepi in mancanza di meglio, perché siepi e begonie si lasciano fare, ma preferiremmo dedicare il nostro tempo a un arbusto umano, se avessimo la certezza che ne valga la pena. La questione è tutta qui. Dovete pur conoscervi un poco voi. Ne vale la pena per voi oppure no? Non vorrei, signore, per nulla al mondo causarvi qualche cruccio, risposi, ma da parte mia vi assicuro che tutto quanto mi verrà da voi non potrà che procurarmi il più vivo piacere. Sono davvero commosso che vogliate accordarmi tanta attenzione e cercare di essermi d'aiuto. Con mio estremo stupore, fu quasi con effusione che il signor de Charlieu mi ringraziò di queste parole. Prendendomi sotto braccio, con la familiarità intermittente che già m'aveva colpito a Balbec e che contrastava con la durezza del suo eloquio, «L'avventatezza tipica della vostra età», riprese, «potrebbe dettarvi qualche uscita capace di scavare fra noi un abisso invalicabile. Le parole che avete appena pronunciate sono proprio, al contrario, del genere che riesce a commuovermi e potrebbero indurmi a fare molto per voi». Mentre camminava, sempre tenendomi a braccetto, rivolgendomi espressioni così affettuose, sebbene a tratti così sprezzanti, il signor de Charlieu mi piantava ogni tanto in viso quegli sguardi fissi e intensi, duramente penetranti, che mi avevano colpito sin dal primo mattino in cui l'avevo visto davanti al casinò di Balbec, e anche molti anni prima presso la siepe di spini rosa, accanto a Madame Swann, di cui lo credevo allora l'amante, nel parco di Tansonville, senza smettere, tuttavia, di fargli errare tutto intorno per esaminare le vetture da noleggio che, a quell'ora di cambiamento del turno, passavano abbastanza numerose e con tanta insistenza che parecchie s'accostarono, già che il cocchiere pensava di essere stato chiamato. Ma il signor de Charlieu si affrettava a congedarle. «Non ce n'è una che faccia il mio caso», mi spiegò. «Dipende dai fanali, dal quartiere cui sono dirette. Non vorrei, signore», aggiunse, «che potesse fraintendere il carattere puramente disinteressato e caritatevole della proposta che mi accingo a farvi». Mi colpivano, più ancora che a Balbec, le analogie fra il suo modo di esprimersi e quello di Swann. «Siete abbastanza intelligente, suppongo, per non credere che essa sia ispirata da mancanza di relazioni, da timore della solitudine e della noia. Della mia famiglia non ho bisogno di parlarvi, già che ritengo che un ragazzo della vostra età, appartenente alla piccola borghesia», sottolineò con soddisfazione queste parole, «debba conoscere la storia di Francia. Sono quelli del mio mondo che non leggono nulla e restano ignoranti come lacché. Un tempo i camerieri del re erano reclutati fra i gran signori. Adesso i gran signori sono poco più che camerieri. Ma i giovani borghesi come voi leggono. Conoscerete di sicuro sui miei la bella pagina di Michelet. Li vedo ben grandi quei potenti Guermant. E cosa mai rispetto a loro il povero piccolo re di Francia rinchiuso nel suo palazzo di Parigi? Quanto alla mia persona, è un argomento, signore, di cui non amo molto parlare, ma insomma, può darsi che ne siate a conoscenza. La cosa è stata ripresa da un articolo del Times che ha suscitato scalpore. L'imperatore d'Austria, che mi ha sempre onorato della sua benevolenza e si compiace di intrattenere con me rapporti di cuginanza, ha dichiarato or non e molto, in una conversazione resa nota al pubblico, che se il conte di Chambord avesse avuto l'assistenza di un uomo esperto come me dei retroscena della politica europea, sarebbe forse a quest'ora re di Francia. Ho pensato spesso, signore, che ci fosse in me, non in dipendenza delle mie modeste doti, ma di circostanze che un giorno forse conoscerete, un tesoro d'esperienze, una sorta di dossier segreto inestimabile che non ho mai creduto di dover utilizzare per me stesso, ma che non avrebbe prezzo per un giovane nelle cui mani io potrei mettere in qualche mese ciò che ho acquisito in più di 30 anni e che sono forse il solo a possedere. Non parlo delle gioie intellettuali che assaporereste venendo a parte di certi segreti che un miscelede ai nostri giorni darebbe anni di vita per conoscere e grazie ai quali certi avvenimenti assumerebbero ai suoi occhi un aspetto completamente diverso. E non parlo solo degli avvenimenti in sé conchiusi, ma del concatenarsi di circostanze. Era una delle espressioni favorite di Charlieu, che spesso nel pronunciarla congiungeva le mani come si fa pregando, ma con le dita rigide, come per far intendere con quell'intreccio le circostanze che non specificava e il loro concatenarsi. Io vi darei una spiegazione inedita non solo del passato, ma del futuro. Si interruppe per farmi delle domande su Bloch, di cui si era parlato da Madame de Villeparisis senza che Charlieu, apparentemente, stesse ad ascoltare. E con quel suo particolare tono, che egli sapeva perfettamente scindere da ciò che diceva, tanto da far credere che stesse pensando a tutt'altro e parlasse meccanicamente, per semplice cortesia, mi chiese se il mio compagno era giovane, se era bello, eccetera. L'avesse sentito, Bloch avrebbe penato ancora di più che col signor di Norpois, ma per ragioni ben diverse, a capire se Charlieu fosse pro o contro Dreyfus. «Non fate male, se volete istruirvi», aggiunse il barone dopo avermi posto quelle domande su Bloch, «ad avere qualche straniero fra i vostri amici». Replicai che Bloch era francese. «Ah!» disse il signor di Charlieu. «Credevo che fosse ebreo». Questa dichiarazione di incompatibilità mi fece pensare che egli fosse più antidreyfusista di qualsiasi altra persona da me incontrata. Invece confutò l'accusa di tradimento mossa contro Dreyfus, ma lo fece in questa forma. «Credo che i giornali sostengano che Dreyfus ha commesso un crimine contro la patria. Lo credo, ripeto, perché non presto attenzione ai giornali. Li leggo così come mi lavo le mani, con la certezza che non valga la pena di interessarmene. In ogni caso è un crimine inesistente. Il compatriota del vostro amico avrebbe commesso un crimine contro la patria se avesse tradito la Giudea. Ma che cosa c'entra lui con la Francia?» Obiettai che, se mai ci fosse una guerra, gli ebrei sarebbero pur chiamati alle armi come gli altri. «Forse, ma non è detto che non sarebbe un'imprudenza. Se arruoleremo dei senegalesi o dei malgasci, non credo che metteranno un grande impegno a difendere la Francia. È fin troppo naturale. Il vostro Dreyfus potrebbe essere condannato, semmai, per violazione delle leggi dell'ospitalità. Oh, ma lasciamo perdere. Forse potreste chiedere al vostro amico di farmi assistere a qualche bella festa al tempio, a una circoncisione, a dei canti ebraici. Potrebbe forse affittare un locale e procurarmi qualche divertimento biblico, come le fanciulle di Saint-Cyr quando, per distrarre Luigi XIV, recitarono alcune scene di Racine tratte dai Salmi. Forse potreste combinare la cosa con qualche parte comica, magari. Per esempio, uno scontro fra il vostro amico e suo padre, conferimento del secondo, come fra Davide e Golia. Risulterebbe, credo, uno spettacolo abbastanza spassoso. Potrebbe anche, già che c'è, prendere a bastonate quella carogna, o, come direbbe la mia vecchia governante, quella scarogna di sua madre. Ah, sì, sarebbe proprio una cosettina graziosa, e a noi non dispiacerebbe affatto, non è vero, mio piccolo amico? Visto che amiamo gli spettacoli esotici, noi due, a infliggere una buona lezione a quella creatura extraeuropea, sarebbe un castigo più che appropriato per una vecchia infame ciabatta». Pronunciando queste parole terribili e quasi folli, il signor de Charlieu mi stringeva il braccio sino a farmi male. Io ripensavo a tutti i tratti di bontà del barone, che i suoi parenti citavano ammirati nei confronti della vecchia governante di cui egli aveva appena ricordato il patois moglieresco, e mi dicevo che i rapporti ancora mi sembrava troppo poco approfonditi fra bontà e malvagità in uno stesso cuore, sarebbe interessante, per quanto multiformi, cercare di definirli.